nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Non ci sono più le mezze stagioni, siamo passati dal vento, dal freddo a questo caldo terrificante. Poi ci dirà il colonnello Giuliacci quanto ancora questo caldo ci avvolgerà. Insomma, alla fine quando si dice fa freddo, non vogliamo il freddo, quando fa caldo, forse ci vorrebbero le misure, le vie di mezzo, che come sappiamo appunto non ci sono più, non ci sono più le mezze stagioni. Non ci sono più, forse non c'è più neanche il Brasile di una volta, titoli dappertutto, il Brasile sotto shock. Come ha potuto non arrivare in semifinale? Oppure non ci sono più le stelle di una volta. Le stelle, voi pensate che siano sempre state le stesse? In realtà, da una ricerca che è stata pubblicata questa settimana proprio su Science, le stelle di una volta, pensate, erano immensamente, centinaia di volte più grandi del Sole. Immaginate che stellone enorme. Eppure, nonostante queste stelle enormi, quindi potevano essere molto luminose, era chiamata la cosiddetta età buia. Qualcuno dice che adesso l'età buia, dipende un po' dai punti di vista. Invece pare che rimpicciolendosi le stelle l'età sia diventata un po' più luminosa. Ma comunque, invece, per stare, diciamo, alle stelle di oggi, ai fatti di oggi, ai fatti di questa settimana, il numero ve lo ricordo 800 24 00 24, che è sempre il numero per raccontare con le vostre libere opinioni i fatti della settimana, quello che vi ha colpito di più, tra il turbinio infinito ogni volta dei fatti di ogni settimana, che cosa ritornereste a mettere in luce, che cosa non vi ha convinto o che commento volete fare su un fatto della settimana. Come sempre il sabato insieme qui a Non ci sono più le mezze stagioni, 800 24 00 24. E come tutti i sabati mi faccio accompagnare da un opinionista estemporaneo, in questo caso un opinionista estemporanea. Signore e signori, Patrizia Tamà. Buongiorno. Buongiorno Patrizia. Buongiorno a tutti. Patrizia, che abbiamo praticamente tirata via dagli esami di maturità, perché Patrizia, non perché tu stia facendo la maturanda in questo momento, ma no, stai purtroppo. Sei già matura, matura nel senso intellettuale, psicologico, emotivo, è perché è insegnante Patrizia Tamà, ma è anche giornalista e ha vinto nel 2004 il premio Maria Grazia Cutuli per il giornalismo femminile, e poi si è fatta venire in mente che probabilmente, come tutti i misteri del passato, anche quelli più recenti, per esempio anche solo dell'Italia moderna o contemporanea, due misteri ancora da scoprire, che qualcosa anche all'epoca di Dante non è stata chiarita fino in fondo. Tu sei convinta, un po' mi sa alla Dan Brown, che ci sia stata anche una quarta cantica, quindi non solo l'inferno, il purgatorio, il paradiso. Stai già svelando il mistero. Questo thriller fresco di Patrizia Tamà, pubblicato da Mondadori, la quarta cantica. Ne sei convinta? Pensi? Sono convinta che avrebbe potuto esserci, che potrebbe esserci. E questa mia idea si basa su una lettura nuova della Divina Commedia. D'altronde Dante stesso esortava il lettore a guardare oltre il velame dei versi strani, cioè i suoi versi strani celano più livelli di lettura. Molta simbologia, ovviamente. Io sono andata oltre e ho svelato anche un livello di lettura collegato con l'alchimia. D'altronde Dante era uno speziale, ma oltre a questo dava dell'alchimia una lettura anche psicofilosofica relativa al cambiamento dell'uomo, perché l'alchimia non è soltanto la trasmutazione dei metalli, ma anche la trasmutazione dell'uomo, che passa esattamente attraverso tre fasi: l'anigredo, che sarebbe l'inferno, l'albedo, che sarebbe il purgatorio, l'arubedo, che sarebbe il paradiso. E dopo si arriva al conseguimento della pietra filosofale, che in questo caso sarebbe l'homo novus, l'uomo rinnovato. E cosa fa? Io mi sono domandata, ma questo Dante uomo nuovo, cosa fa? Che messaggio porta? Scusa Patrizia, se ti interrompo, ma queste fasi, quindi del purgatorio, dell'inferno e del paradiso, sono le fasi di un'esistenza di un unico individuo o di tutta la civiltà invece, periodi, epoche? No, chiaramente qui si parla di uomo universale, cioè Dante parla per se stesso e parla per gli uomini tutti, l'umanità tutta, e quindi anche la quarta cantica ha una ricaduta per l'umanità tutta, come tutte le tre cantiche precedenti, cioè è l'uomo con la U maiuscola, cioè Dante pellegrino, Dante viaggiatore e tutti noi esseri umani che, come Dante, dobbiamo sviluppare questo viaggio dentro noi stessi per prendere consapevolezza delle nostre ombre, dei nostri chiaroscuri, per poi iniziare la risalita, rivedere le stelle e arrivare a questo rinnovamento, questo messaggio un po' più concreto, un po' più calato sulla terra, che sarebbe la quarta cantica. Quindi mi sembra piuttosto ottimista lui in questo senso, no? Quindi si va verso l'alto, verso il progresso, verso la luce, che non mi sembra che... Ottimista. Aveva una valutazione delle condizioni storico, politico e religiose della sua epoca abbastanza negativa, ce l'aveva con i papi simoniaci, che ficcava testa in giù con i piedi infiammati nell'inferno, però certo non ha mai smesso di sperare in un rinnovamento. Invece sui fatti di questa settimana, stando più diciamo terra a terra, Patrizia Tamà, c'è uno in particolare, poi dopo man mano con le ascoltatrici e con gli ascoltatori saltiamo un po' di qua e di là, cerchiamo di fare una panoramica il più ampia possibile, poi a seconda di quelli che sono gli argomenti che più interessano chi ci ascolta, c'è un fatto, una notizia che ti ha colpito più delle altre? Questa settimana, cioè tutte le prime pagine dei quotidiani sono state dedicate al DDL sulle intercettazioni, quindi tutti ci siamo interrogati, secondo me, sul rapporto tra la privacy e la libertà di stampa. E io, guarda, a questo proposito mi sono appuntata una frase di Beniamino Franklin che mi fa riflettere e che condivido pienamente. Che lui dice? Diceva: chi accetta di barattare parte della propria libertà in nome della sicurezza merita di perderla del tutto. E cioè il rapporto tra io preferisco perdere un pezzettino della mia privacy, ma vivere in un mondo in cui vige la libertà di stampa, in cui i magistrati sono liberi di svolgere le loro inchieste come ritengono opportuno, piuttosto che rinunciare a questo pezzo importantissimo di libertà. Ecco, questo secondo me è stato il tema più caldo della settimana. Quindi tu per la sicurezza rinunceresti, come dice Franklin, un pochino oppure no? No, io assolutamente. Io preferisco perdere in privacy ma guadagnare in libertà, in questo senso assolutamente. Cosa ne penseranno le ascoltatrici e gli ascoltatori? Poi tema che si dibatte lungamente, adesso vedremo se si concluderà con la fine dell'estate, dopo l'estate, insomma ancora non si capisce, non è chiaro, anche con l'intervento di Napolitano, insomma, che potete vedere non molto compiacente su questa cosa. Poi c'è la sentenza dell'Utri, c'è il caso Brancher che continua a creare scompiglio all'interno della maggioranza, quindi le tensioni tra Berlusconi e Fini, Tremonti che dice basta con la cialtroneria del Sud, c'è la con le regioni del Sud che dice non sanno spendere i soldi, i fondi dati a disposizione dall'Unione Europea, la morte di Taricone, però ricordo anche che questa settimana è morto anche Aldo Giuffrè, se ne è parlato pochissimo. È chiaro che Taricone, fenomeno tra l'altro mediatico, poi quando si muore da giovane si sa, è tutta un'altra cosa, quando poi uno invece muore verso un'età ormai molto più che matura, lo si dà quasi per scontato, per fisiologico. Il calcio, quali sono le notizie di questa settimana sulle quali vorreste tornare? 800 24 00 24. E prima di collegarci anche con un altro pianeta, come sempre, per avere un punto di vista extraplanetario, fra le notizie che vedo oggi su, per esempio, Corriere.it o Repubblica.it, ce ne sono due di una stessa natura e che mi danno un po' il segno dei tempi, a proposito non ci sono più le mezze stagioni. Allora, sono due grosse aziende, una proprio a livello mondiale, planetario, un'altra anche, insomma, la maggiore industria italiana che non se la passa male a livello internazionale, e vado a prendere, una è Google, il maggior motore di ricerca, vediamo se la ritrovo qui sul Corriere.it, eccolo qua, gay discriminati, Google paga di più. La svolta dell'azienda di Mountain View, buste paga più pesanti per chi è discriminato per le scelte sessuali, gli eterosessuali dicono sposati godono di maggiori sgravi fiscali e quindi noi paghiamo di più anche gli omosessuali discriminati. E poi una cosa che magari non ci si aspetterebbe, ma appunto dicevo segno dei tempi, è anche la Fiat ha fatto la sua parte in questo campo ed è tra le prime notizie riportate sul lato del sito con la fotografia: lesbo, drag e cool, le nuove 500 del Gay Pride. Cioè praticamente la Fiat, delle sue difficoltà adesso in Italia con Pomigliano, le vertenze eccetera eccetera, ha deciso di fare delle 500 personalizzate per le sfilate del Gay Pride a Madrid, in Spagna, capitale spagnola, di questo fine settimana. Mi paiono così due cose particolarmente emblematiche di questi tempi. Però vediamo se altrettanto è emblematico è quello che per esempio si vede dal di sopra verso il di sotto. Riflessioni da Marte. Bisogna dire che stare a guardare il globo terracqueo da quassù, da Marte, è senza dubbio infinitamente meglio che andare al cinema. Non ci si annoia davvero mai, gli esseri umani sono così bizzarri, spassosissimi direi. Questa settimana, per esempio, per puntare, tanto per cambiare il telescopio su Terra Italica, c'è una, oserei dire, galattica sentenza della Cassazione. Che dice questa sentenza? Se una donna è forte e non risulta particolarmente intimorita dall'aggressività e dalle sopraffazioni del marito, allora maltrattarla non è reato. Qui su Marte qualcuno in questi giorni non credeva alle proprie antenne, ha pensato che fosse una cosa dell'altro mondo. Non ho assicurato, io è creatività giuridica peculiarmente terrena e in specie italica. La Corte dunque ha dato ragione all'uomo sopraffattore, il quale si è giustificato, poveretto questo marito, dicendo che sua moglie non era per nulla intimorita del suo comportamento aggressivo, ma solo sentite, parole di lui, scossa, esasperata, molto carica emotivamente. E che sarà mai effettivamente? Mica questa si è buttata da un ponte o si è tagliata le vene per i maltrattamenti e le percosse del marito. Dunque, ha giustamente dedotto la Cassazione, non facciamola più grossa di quello che è. Come può essere infatti considerato colpevole e condannabile questo povero marito che alla fine non l'ha mica ancora strangolata, sgozzata o sparata? I fatti incriminati in questa vicenda, prosegue con saggezza la Cassazione nella sentenza di assoluzione del marito, appaiono, dice la Cassazione, questi fatti incriminati, risolversi in alcuni limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse nell'arco di 3 anni. E che sarà mai? Cosa c'è di strano? Cosa c'è? Cosa c'è di strano? Ecco appunto. Dunque, conclude la Cassazione, l'atteggiamento aggressivo del marito non è caratterizzato da abitualità e dunque non punibile. Un conto dunque, cari mariti violenti, è se picchiate vostra moglie, che è cosa vostra, naturalmente tutti i giorni. Un conto è se lo fate a fasi alterne. Anzi, suggerisce in qualche modo la Cassazione, fatevi furbi e picchiatela un po' sì e un po' no, senza configurare quindi una situazione di abitualità, che poi magari a picchiare tutti i giorni vi annoiate pure. In più, se lei è forte, potete percuoterla anche come un mulo, che tanto siete esenti da ogni sanzione. Non si dice forse forte come un mulo? E magari, se siete fortunati, sentirete anche vostra moglie cantare così. Forti queste donne, quindi. Questa sentenza della Cassazione, poi va detto, cade proprio a fagiolo in un paese, l'Italia, che è il record europeo di donne uccise da mariti, ex mariti, fidanzati, ex fidanzati, una donna uccisa ogni 2 giorni. Poi questa settimana un uomo ne uccise 2 in un giorno solo, così per ottimizzare i tempi. E ieri, per non perdere la media nazionale, un altro uomo ha ucciso la fidanzata che lo aveva lasciato e probabilmente, prima di mettere fine ai giorni di lei, le avrà anche detto: dove credi di andare se tutti i tuoi pensieri restano qui? Ma alla fine, diciamolo, trionfa sempre la giustizia, proprio come nei telefilm dell'ispettore Derrick. E così sempre, naturalmente, nella penisola italica, un uomo, questo sì davvero colpevole, riceve dalla giustizia quel che si merita, perché si è macchiato di uno spregevole, lo ripeto, spregevole delitto. Ha rubato, pensate, un cappelletto d'auto. Sapete il cappuccio a vite, no, che chiude la valvola del pneumatico, del valore di ben 10 centesimi? Ebbene, questo settantenne imprenditore, ma diremmo meglio autentico rifiuto della società, è in attesa di una sentenza da 5 anni. Ma il giudice ha assicurato che il fellone non sfuggirà alla giustizia. Come dunque celebrare questi fatti, se non con un novello inno italico? Ciao, l'armata branca, leone! robe da matti, d'altro mondo, da Marte. Noi ritorniamo coi piedi sulla Terra, 800 24 00 24 e direi di cominciare a sentire le vive voci delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Inizierei da Silvana da Pordenone. Buongiorno. Buongiorno Silvana. E niente, siccome ho sentito che questo giudice ha sentenziato che sì, per 2 o 3 insulti non si può, io porto la mia testimonianza. No, anche botte. Sì, infatti. Sì. Guardi, la prima volta che io mi sono presentata, ho fatto penale e civile naturalmente, il giudice mi ha guardato e mi ha detto, ma signora, lei con questo fisico come fa a avere paura di suo marito? Vedeva me per la prima volta, sono alta 1,70, peso 80 kg, io sono rimasta sbalordita e gli ho detto, ma non so perché le Olimpiadi le fanno diverse tra uomini e donne, non ci sarà un motivo forse. Ma è morale comunque, c'è questa propria tendenza a dire, ma cosa vogliamo? Ma che pretese, Silvana, sì, scusa. Sì. E quindi come è andata? Cioè, hai subito maltrattamenti, sei andata dal giudice, ti ha detto, scusi, con quel fisico lì da energumena come fa? Poi 1,70, mi sembra proprio questa roba pazzesca. Questo è stato l'approccio primo 3 anni naturalmente, perché naturalmente lui è collerico, è stato definito collerico e mi ha fatto tutti i colori, ha dimesso il suo avvocato, ma comunque che giura del caso, alla fine mi hanno detto, vabbè signora, i 30 milioni le bastano per 2 schiaffi, no? Se si danno 50 milioni per una donna che viene uccisa, ah. io tanto il chilo, insomma. Comunque ho finito, mi sono dovuta proprio arrangiare in tutti i sensi. Ecco, porto a testimonianza che proprio c'è questo sistema come per dire, ma cosa vogliamo? Ecco, questo mi è sembrato, io ho fatto 5 anni di tribunale. Va bene. Sei separata. Coraggio, adesso non Silvana? Non vogliamo. Sì. Sei separata, sì. Coraggio non molliamo, dice Silvana. Certo, con questa mentalità. Uno dice, ma forse qualche anno fa. È una sentenza di l'altro ieri, mi sembra, questa della Cassazione. È veramente vergognosa. La ministra delle pari opportunità, Mara Carfagna, ha detto è un vero regalo questo ai violenti. È indegna in un momento come questo. È sempre comunque una sentenza simile. Grazie Silvana. Così su questo abbiamo ulteriormente accentuato una cosa così grave, così paradossale. Viene da ridere per non piangere, ma intanto scopriamo quali sono le notizie che più vi hanno colpito questa settimana. Abbiamo sentito prima Silvana e darei la parola, anzi forse Patrizia, tu vuoi commentare a tua volta un fatto come questo? Beh, sì, io volevo fare una chiosa a quanto ha detto Silvana, cioè la violenza prescinde dalla forza dell'aggredito, è sempre violenza in qualsiasi contesto, per cui anche se la moglie è corpulenta, magari anche più dell'uomo, questo non cambia nulla, non toglie neanche un milligrammo alla colpevolezza, alla gravità dell'accaduto. È pazzesca questa cosa, veramente non ho parole. Ti dirò che sono stata 3 anni su una mongolfiera, che è stato la mia mongolfiera ideale, è stata la scrittura di questo libro. In questi 3 anni mi sono un po' allontanata dalla cronaca e adesso che torno con i piedi sulla terra in tutto e per tutto sono molto sconcertata, forse anch'io vedo un po' le cose come da Marte, come tu dicevi prima. Forse Patrizia conviene ogni tanto andarci su questo, scrivi un altro libro che magari per un po' vivi. Infatti, serenamente farò. Stefano da Prato. Buongiorno Stefano. Io assisto veramente con grande preoccupazione all'esplosione di violenza domestica nei confronti delle donne di questi ultimi tempi. Soltanto oggi, aprendo il giornale, ho visto 2 o 3 casi di cronaca agghiaccianti. Sì. Ogni 2 giorni una donna, ogni 2 giorni in Italia primato europeo. Guarda, è una cosa terribile e che fa riflettere. Addirittura l'altro giorno si diceva che in casa ci sono, diciamo, i parenti o comunque i conviventi o fidanzati, mariti che siano, uccidono più della mafia o di altre, sì, o di altre cose. Più della mafia e delle varie criminalità organizzate, insomma. Guardi, questa premessa la faccio perché poi io in realtà volevo spendere forse una parola a favore di questa sentenza, che peraltro non ho letto e quindi forse andrà letta nel dettaglio, capire qual è il contesto, cos'è accaduto. Ma vorrei dire questo, cioè il reato di maltrattamenti, per come è strutturato, viene descritto nella condotta e nei suoi presupposti richiamando un contesto sociale che non è più quello in cui viviamo oggi. Cioè, se non ricordo male, è addirittura una norma del codice Rocco, cioè degli anni 30, che poi dopo subisce varie, come si dice, interpretazioni, riadattamenti grazie alle sentenze della Cassazione, che però c'è stato anche l'intervento sul diritto di famiglia che ha cambiato gli equilibri della famiglia. Aggiungo che recentemente sentivo dire in un convegno che questa norma in realtà prevede la punibilità d'ufficio, cioè significa che non è neanche necessaria una denuncia della moglie perché un giudice entri negli affari privati di una famiglia e per comprendere se all'interno di quel contesto c'è o meno una violenza. Questo perché? Perché la donna, come era immaginata dal legislatore del 30, era una donna che poteva essere rinchiusa nelle mura domestiche, addirittura segregata forse nella mente di questo, di chi ha scritto la legge, e quindi era necessario che la giustizia e con essa un giudice o chi per lui sfondasse la porta di casa per venire a controllare che non ci fosse una donna in quelle condizioni. Invece ecco, adesso le donne vivono in modo completamente diverso, secondo te? Io credo che le donne di oggi siano diverse. Quindi si sono picchiate, vuol dire che non hanno tirato loro volta un bel gancio. Io non lo penso affatto e guardi, ho iniziato dicendo io sono tremendamente preoccupato per la violenza sulle donne. Dico solo che forse sul reato di maltrattamenti, cioè su quella singola fattispecie, forse dobbiamo riflettere se è ancora attuale pensare a una donna segregata nel mondo domestico, non una donna che si rivolge a un avvocato, che spesso è un avvocato lei stessa, che è un giudice che ricopre posizioni di responsabilità. Le donne maltrattate sono giudici. E quindi io mi domando se forse non c'è qualcosa anche di ragionevole in quella sentenza. Stefano, allora ce l'ho qua davanti la sentenza. Ce l'ho qua davanti, è tutta l'agenzia dell'ANSA di ieri che riporta un po' gli stralci abbastanza esaustivi direi di questa sentenza della Cassazione. Era stato condannato in primo grado a 8 mesi quest'uomo, poi la Cassazione ha deciso che insomma, siccome questa donna non risultava intimorita ma semplicemente scossa e emotivamente molto carica, alla fine non si poteva configurare come un reato, anche perché, dice, non c'è stata una situazione di abitualità, cioè ingiurie, maltrattamenti e percosse una volta ogni tanto nel corso di 3 anni. Quindi alla fine dice non tutti i giorni, e quindi che cavolo voleva questa, no? Insomma, anche al cane ogni tanto si tira una pedata, no, giusto? Se mi consente altri 10 secondi, le racconto. Prego. Anch'io un piccolo episodio che veniva narrato qualche giorno fa in un convegno a cui ho partecipato, cioè una donna che aveva in corso una separazione, cioè aveva deciso lei di separarsi dal marito. Come ha potuto decidere lei? No, si figuri, ma guardi, non mi metta in una posizione in cui non voglio stare, cioè di chi non ha sensibilità per le problematiche femminili, ma nella descrizione delle sue vicende familiari che aveva fatto al giudice per chiedere la separazione, questo giudice d'ufficio aveva ritenuto ci potessero essere dei maltrattamenti. Ora, io domando a lei, di fronte a una donna che non aveva mai fatto una denuncia e mai una volta si era aveva chiesto aiuto a un avvocato, alla polizia o chi che fosse, che stava decidendo autonomamente di separarsi, si poteva ritenere che quella donna fosse maltrattata? Cioè maltrattata in un modo punibile penalmente, non moralmente. Adesso questo, Stefano, è un caso singolo avvenuto poi dopo una separazione, lei ha tirato fuori questa cosa, non lo so, tu sai che appunto, dicevo, una donna uccisa ogni 2 giorni in Italia da un marito, ex marito, fidanzato, ex fidanzato, quello che questa volta ha ottimizzato i tempi e ne ha uccise 2 in una volta, è andato prima in Piemonte e ne ha uccisa una che era una sua ex compagna, poi corso in Lombardia e ha ucciso l'altra, una delle due aveva denunciato un sacco di volte quest'uomo per molestie, maltrattamenti, minacce, eccetera. Quindi tu dici denunciare, anche quando si denuncia, poi non si. No, è chiaro che bisogna denunciare, questo sia chiaro. Io dico denunciare, poi i risultati sono quelli che sono. Professionisti, dico ora c'è una norma, è quella dello stalking, questo nuovo reato, sì, che secondo me è importantissimo, consente per esempio un intervento preventivo, l'obbligo di allontanamento. Cioè io dico questo, uscire dal silenzio significa fare questo, informare che esistono degli strumenti, esistono delle strutture, esistono persone capaci di aiutare, di prevenire. Certo, no, è importante che poi si agisca di conseguenza e che non si lasciano le cose sospese così. Stefano, levami solo una curiosità, che mestiere fai nella vita? Se io puoi sono dire. Un legale. Ah, ti ringrazio Stefano. Prego, grazie a te. Grazie, buona continuazione. C'è Gianni da Pavia? Sì, pronto? Eccoci Gianni. Siamo sì, qua. Ecco, intanto complimenti per la sapiente ironia che non toglie niente alla sostanza delle cose di cui si parla. Grazie. Io volevo fare un commento su un commento, cioè volevo, se possibile, commentare il paziente, il commento dell'ospite che avete in sala, che dopo aver che non è in sala operatoria come paziente di Dante, sì. Facendo riferimento al decreto sulle intercettazioni, ha detto che scambierebbe volentieri un po' di privacy per, in cambio della libertà di stampa della possibilità dei giudici di fare le indagini in un certo modo. Beh, io volevo fare un rapidissimo commento che è questo. Intanto la privacy nostra, di ciascun singolo individuo, credo sia una componente fondamentale della libertà nel suo complesso. In secondo luogo, i giudici non smetteranno di fare le loro indagini e poi non sono proprio così infallibili come sarebbe dimostrare anche la sentenza che avete appena commentato sulla... Certo, l'infallibilità è solo del Papa, per chi lo pensa, insomma. Sì, esatto, esattamente. Basta, ho finito. Solo, molto, molto coinciso. Grazie Gianni. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a te. 800 24 00 24, già due grossi temi sono venuti fuori, l'ha pensato in un modo, l'ha pensato in un altro, l'ha pensato in mezzo, con altre sfumature, con libertà di pensiero naturalmente, e direi che è la volta di... Poi facciamo rispondere magari Patrizia Tamà, visto che la chiamava in causa Gianni. C'è Roberto da Milano. Sì, buongiorno Roberta. Buongiorno Roberto. Di questa vicenda ci sono tre aspetti più un altro laterale. Di quale vicenda parliamo? Di questa della sentenza sulle donne. Sì. Allora, il primo è che questi qua, i giudici che hanno giudicato, li paghiamo noi. Il punto secondo è che questi qua sono inamovibili e possono sentenziare qualunque demenzialità, e negli ultimi 2 o 3 anni ne abbiamo visti a Caterva. Il punto terzo è che io spero che quel giudice lì o quei giudici lì abbiano una moglie Marcantonio che li prenda a schiaffoni a due finché diventano dispari, e poi vediamo se commette reato. Sarebbe bello da vedere la scena, perché sì, lo vorrei vedere poi di là sul bancone con sulla feluca e l'ermellino a fare la sentenza. Ciao Roberto. Ciao Roberto. Adesso naturalmente senza fare il telefono un fascio, però questi giudici in particolare, secondo me, una scenetta così ipotizzata da Roberto non sarebbe niente male. Forse per una volta si potrebbe dire gli sta bene, come dicono i bambini. 800 24 00 24, Patrizia Tamà. Sì, allora, quando rispondo all'ascoltatore, quando prima citavo la frase di Franklin, non volevo certo alludere all'auspicio di un grande fratello che sempre ci ascolta e che intercetta tutto quello che diciamo, assolutamente. Volevo soltanto difendere la libertà di stampa e di espressione, che secondo me è gravemente minacciata con questo decreto legge così com'è. È chiaro che forse si possono regolamentare in modo diverso le intercettazioni, ma così com'è la legge non va, non funziona, perché ad esempio si prevede che non si possa mai parlare in nessuna forma delle intercettazioni. Questo significa che non potremo neanche conoscere i profili delle indagini e l'opinione pubblica non potrà controllare l'operato della magistratura valutandola, ma anche per criticarla. Quindi va regolata in un modo diverso. 800 24 00 24, c'è Giorgio De Luca che sta raccogliendo tutte le vostre telefonate al numero verde. Quali sono i fatti della settimana che volete commentare? Su alcuni argomenti che abbiamo trattato in questo momento, forse tanto paradiso non è, ci sono opinioni diverse, ognuno libero di esprimere sui fatti della settimana. 800 24 00 24, Patrizia Tamà, adesso sentiamo poi le altre telefonate delle ascoltatrici e degli ascoltatori. C'è qualche altro tema, a parte appunto i due grossi che sono venute fuori, le intercettazioni da una parte, la sentenza della Cassazione sulle donne che se maltrattate, se sono forti e maltrattate dai mariti, non è reato perché hanno un carattere forte, quindi alla fine non subiscono, non accusano più di tanto queste vessazioni. Ce n'è un'altra che ti ha... Io volevo aggiungere qualcosa su queste aggressioni verso le donne, e dirò di più, anche questi fatti di cronaca per cui questi omicidi, suicidi, che così mi fanno riflettere, prendendo un attimo le distanze, salendo di nuovo su quella mongolfiera che mi ha caratterizzato in questi anni di studi matti e disperatissimi. Secondo me viviamo in un momento storico in cui il sistema educativo in generale e la società, l'educazione che i genitori danno ai figli, anche il sistema educativo scolastico, certo, non abituano i ragazzi, che poi diventano giovani adulti e poi si sposano, al rifiuto. Quindi siamo tutti più o meno sulla stessa barca in questo senso, siamo poco strutturati rispetto al rifiuto. Stai parlando di donne, di uomini? Di uomini, diciamo che questo, visto che stiamo commentando questi fatti di uomini che sentendosi rifiutati arrivano chiaramente avendo alle spalle probabilmente qualche problema di equilibrio psicologico, mi auguro almeno, arrivano a questi gesti estremi. Però queste sono, diciamo, le punte di un iceberg, di un fenomeno che io di cui ritrovo vari segnali, come gli adolescenti che di fronte a una bocciatura troppo frequentemente, perché non dovrebbe accadere mai, hanno una reazione di rifiuto violento su se stessi, quindi arrivano addirittura al suicidio. E quindi uomini che uccidono le ex che li hanno rifiutati e poi si suicidano, adolescenti che di fronte a una sequela di 4 e di 5 si suicidano, famiglie iperprotettive che rivendicano il diritto alla sufficienza, sempre comunque, sto parlando anche da insegnante, dei loro figli. È troppo, stiamo tutelando troppo le giovani generazioni rispetto all'insuccesso, e questo genera conseguenze per me catastrofiche. Salvatore da Salerno. Buongiorno. Buongiorno Salvatore. Complimenti anche, ripeto, per l'ironia che state usando nel trattare un argomento e rendendolo poi anche facile nella sua complessità, come quello in modo particolare del commentare una sentenza della Cassazione, sempre impresa assai ardua. Mm. Nel caso specifico credo che però la Cassazione abbia fatto un ragionamento un po' diverso, non abbia certamente legittimato la violenza nei confronti delle donne, che va condannata a prescindere, come tutte le violenze, da parte di un essere umano nei confronti di qualsiasi altro essere umano, ma si sia soffermato esclusivamente sul concetto di abitudinarietà, cioè della ripetizione costante di queste violenze, che configura un reato, quello del maltrattamento, dicendo che non esiste questa abitudinarietà, sono singoli episodi di lesioni, ingiurie e minacce che ricordo essere punite anche severamente, sempre e comunque, dal codice penale. Quindi questo signore sarà punibile per le lesioni, le minacce e le ingiurie rivolte alla moglie, sicuramente essendo ripetute con una pena maggiore, ma non essendo una costante nel tempo preso in esame, non può configurarsi l'altro reato di maltrattamenti in famiglia. Quindi credo che questo sia sostanzialmente il ragionamento alla base della decisione della Cassazione. Poi si possa o meno considerare giusta la legge, i parametri con cui è stato scritto all'epoca nel codice Rocco il reato, e questa è un'altra discussione. La Cassazione applica le leggi come tutti quanti i giudici. Credo però che, come dal punto di vista giuridico, sia una differenza, anche se una sottigliezza, che credo abbia fatto nella fattispecie, nel singolo caso specifico di questo signore, possa avere una sua ragion d'essere. Senti, Salvatore, tu sei giurista? Dovrà essere condannato per le ingiurie, le minacce e le violenze che ha fatto nei confronti della moglie. Quindi secondo te c'è un seguito? Credo che ci sia qui non appare, comunque. Credo che ci sia un seguito. Credo però di solito le ingiurie, le minacce e le percosse sono punibili a querela di parte, ed è probabile che la signora non abbia sporto querela e quindi non sia stato condannato per questo e fosse rimasto in vita solamente il maltrattamento in famiglia, che è un reato perseguibile d'ufficio, quindi non c'è bisogno che la persona offesa faccia denuncia per far sì che lo Stato intervenga. Salvatore, tu sei giurista, in qualche modo sei legato all'ambito, no, al mondo? Sono un giornalista di cronaca giudiziaria, quindi un po' per questo. Quindi mi astengo dal commentare la legge in approvazione sulle intercettazioni telefoniche, che è una, secondo me, una vera aberrazione, ma essendo parte in causa Beh, comunque questo non toglie che si possa avere giustamente una propria opinione, una propria posizione sulle cose. Salvatore, ti ringrazio e leggo quello che poi ha detto ieri, io l'avevo proprio riassunto, la ministra Carfagna delle pari opportunità. Dice: in un momento in cui la violenza sulle donne affolla le cronache nere dei giornali, non posso dirmi amareggiata di fronte a questo caso di vera e propria miopia da parte dei giudici della Cassazione. La violenza, dice la Carfagna, la volontà soprafrattice, come è stata definita dai giudici, non pesa più o meno a seconda del carattere della vittima, cioè se è debole, se è forte, se è energumeno, se... Relativizzare la violenza, conclude la ministra, vuol dire armare il violento. E direi, per un attimo, sospendiamoci, diciamo, da questi fatti. 800 24 00 24, continuate a riflettere sulle notizie della settimana che volete commentare, e diamo un po' di spazio, tempo al tempo, diciamo. Tempo meteorologico, naturalmente, intendevo in questo caso, che ormai ci pare, colonnello Mario Giuliacci, avviato verso una matura estate, insomma, diciamo, piena di se stessa, o no? O ci aspettano sorprese? Ciao Roberta, un saluto a tutti. Ciao Ma Giuliacci. Sì, dai, adesso veramente questa è la vera estate. Qualche temporalino qua e là ci sta sui rilievi, è tipico, no, di questa stagione, ma non rovinerà comunque le vacanze a chi in questo momento è in montagna. E il fatto di maggiore rilievo è il caldo che abbraccia soprattutto il centro nord. Al sud direi sono temperature estive normali, 30 gradi in questo momento. Beh, il caldo al centro nord che si intensificherà nella giornata di domani, e quindi domani, ma in parte anche oggi, due valori massimi al centro nord tra 31 e 34 gradi, e quindi domani appena qualche mezzo grado, un grado in più, e così lunedì ancora su valori abbastanza elevati, ma poi tra martedì e mercoledì il caldo si smorzerà un po' su quasi tutto il centro nord, quindi temperature intorno a 28, 30, 31 gradi su gran parte d'Italia, che per questo periodo sono la normalità. Ma poi attenzione tra giovedì e venerdì, caldo che ritorna ad una vampata di caldo ancora più rovente di quella che stiamo assaggiando in questi giorni, sempre al centro nord tra giovedì e venerdì, e poi in trasferimento graduale al sud tra il 10, il 12 e il 13 di luglio, in trasferimento al sud, mentre al nord tende a smorzarsi di nuovo questa vampata di caldo intenso. Senti, ecco, colonnello Giuliacci, ti do un consiglio, no? Siccome li ripetono da circa decenni, io mi ricordo da quando sono nata, ogni estate vengono fuori i consigli degli esperti, allora te lo dico a memoria: pasti leggeri, molta acqua, frutta e verdura. Tu che fai, metti i piedi nell'acqua? Rinfrescarti? No, anche nel vino. Rimanici sobrio, se non sappiamo se sono attendibili le previsioni che dai oppure no, vero colonnello Giuliacci? Certo. Grazie Roberta, un saluto a voi tutti. Buona estate. A te colonnello, un solare fine settimana comunque sia. Grazie. Roberta Giordano sempre con voi, che in questo momento vi dà anche, spero, una notizia rassicurante. Sapete che ieri c'è stata venuta fuori la notizia secondo cui sarebbero state tagliate le tredicesime a poliziotti, magistrati, professori, eccetera, eccetera. Ora vedo una flash di agenzia: il presidente del Senato, Renato Schifani, secondo quanto si apprende da fonti vicine alla presidenza del Senato, ha telefonato al presidente della commissione bilancio di Palazzo Madama, Antonio Azzolini, per invitarlo, relatore anche della manovra, a riflettere attentamente sull'opportunità di ritirare al più presto l'emendamento a sua firma sulla riduzione della tredicesima nel comparto delle forze armate e della sicurezza, che si sono prestamente fatte sentire su questo tema. Daniela D'Ariccione. Buongiorno. Buongiorno Daniela. Buongiorno Roberta. Ho detto al suo collaboratore che non ci sono solo le violenze fisiche, per me perlomeno, ma violenze morali, che per me sono molto più delle violenze fisiche. Cioè, mi hanno proprio rovinato la vita. Stai in parlando? 10 anni. Cambiata proprio come persona. E come posso fare? Consultato psicologi, psicoterapeuti, amici, figli, fratelli. Comunque la violenza morale continua. Ma Daniela, ma ti sei separata o no? Sì. Sei separata. E continua ma lo stesso? Ma mio marito non vorrebbe mai il divorzio. E comunque sta con l'altra persona. e non vorrebbe mai che io trovassi qualcuno che mi vuol bene, anche perché forse io non l'ho staccato mai dal mio cuore. Beh, direi che è il caso però di farlo, Daniela, no? Se incominciano le donne stesse a creare questo, so che psicologicamente si cade facilmente in questa rete, no? Del carnefice, della vittima, e diventa un circolo vizioso del quale non si riesce a staccarsi. Però Daniela, mi sembra che ci siano tutti gli elementi per dire no, addio. Che dici, Daniela? Dico che è molto facile dirlo, ma no, è molto difficile farlo. Però avrai ancora della vita da goderti e da vivere, no, e da vivere in modo diverso, possibilmente, da come l'hai vissuta negli ultimi 10 anni. Quindi, ma credimi, avrei preferito molti schiaffi e molti calci piuttosto che quello che mi è successo dentro. No, questo per dire, per sottolineare naturalmente, Daniela, anche la forza, la pesantezza, l'incisività della violenza morale e psicologica, ma tutte e due vanno evitate e bisogna denunciare, come ricordavano anche alcuni ascoltatori, e soprattutto prendere se stessa e mettersi in salvo il prima possibile. Grazie Daniela. Non so se volevi commentare, Patrizia Tamà, qualcosa che è stato detto sinora, poi volevo andare un po' dopo su un pochino di leggerezza. Sì, certo, penso che sia giusto. Mi ha colpito molto questa telefonata di questa ascoltatrice, perché mi fa pensare appunto a certe pieghe dannose dell'amore. L'amore dannoso, l'amore molesto. Alle volte noi donne siamo un po' attaccate alla nostra sofferenza, invece dobbiamo davvero farci forza e venirne fuori a tutti i costi. Dimmi una cosa, Patrizia, fra le tantissime notizie che ho accumulato in questa settimana, c'era anche una proposta di togliere la patente per sicurezza dopo gli 80 anni. No, non sono assolutamente d'accordo. Ma scusa, da un lato hanno detto che le pensioni saranno legate all'aspettativa di vita. Io penso che dovranno essere 90 anni. Agli 80 anni, no. Anche no, perché dovranno andare al lavoro gli 80 anni, certo, gli 80 anni tra un po'. No, quindi a lavorare 80 anni come ci andiamo? Io col motorino. Ai ventenni. No, no. Francesca da Varese, 800 24 00 24. Francesca, caduta Francesca, capiamo subito Francesca. Sì. E Francesca, invece, un'altra cosa, direi notizia un po' particolare di questa settimana, perché però è una ricerca scientifica molto seria, pubblicata sul Journal of Sexual Medicine, quindi sul giornale internazionale di sessualità, che dice che il rapporto perfetto sessuale dura 10 minuti, dopo diventa noioso, perché dicono in questi 10 minuti, dicono gli esperti, la tensione è altissima, ci si concentra solo sul rapporto, poi il cervello comincia a vagare altrove. Non è specificato verso dove vaghi, però vaga. Che dici tu, Patrizia? Sulla sessualità si dice di tutto e di più. Un giorno ci dicono bianco, il giorno dopo ci dicono nero. Io credo che sia assolutamente un rapporto alchemico, appunto, visto che nel mio romanzo ho parlato di alchimia, dipende dall'alchimia tra due persone. Può durare 10 minuti, un'ora, può essere bellissimo allo stesso modo. Quindi che nessuno si mette alla sveglia perché pensa, allora i 10 minuti sono esatto, quelli, poi questa comincia a vagare altrove. Ma no, ma mettiamo la sveglia. Questi falsi miti. Non c'è la durata perfetta, non c'è il rapporto perfetto. Ma c'è una donna perfetta che vi voglio presentare. Ed è Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Cara Valeria. Eccomi qua. Ciao Valeria. Senti, abbiamo parlato tanto di un tema molto molto importante, troppo spesso sottovalutato. Legato a questo tema c'è un termine che è piuttosto nuovo, che è quello di stalking. Leggevo da un rapporto del Ministero delle Pari Opportunità, nell'ultimo anno 1500 denunce per stalking, se non di più. Che vuol dire stalking? Ecco, allora, intanto la cosa interessante è che la parola che appunto in particolare in questi giorni, per motivi drammatici, è in tutti i giornali, in tutte le cronache, la cosa interessante è che nessuno sente più necessità di tradurla, tanto ormai è purtroppo nota e conosciuta. È successa un po' la stessa cosa che è avvenuta per mobbing, però vale sempre la pena di ricordare come è nata la parola. È una parola inglese, viene dal verbo to stalk, che vuol dire piedinare. Valeria, dove sei? Sulla spiaggia, che ti sentiamo un po' male? Spiaggia, sì, purtroppo sì. Perché c'è del vento. Non riusciamo a sentire, da dove deriva questa parola? Mi senti continuo? Sì. Sì, allora dicevo che la parola si è diffusa dal 2000 proprio per indicare l'insieme di molestie ripetute nei confronti di qualcuno. Di molestia, aggiungo sì. che questo qualcuno è quasi sempre, se non sempre, una donna, no? Che viene quindi perseguitata con manifestazioni che vanno da quelle più leggere, chiamiamoli così, e che diciamo invadenti, a quelle invece vere e proprie di violenza. È interessante ricordare, anche se è stato già fatto, che dal 2009 è diventato un reato. Ultima notazione, che è solo di ambito linguistico. Ecco, questo è uno dei casi nei quali io mi arrendo di fronte all'uso di una parola straniera, perché in questo caso è motivata dal fatto che noi non, in fondo non abbiamo una parola davvero adatta. Noi avremmo persecuzione oppure molestia, però in un certo senso sono parole troppo generiche, mentre stalking ha dalla sua parte il vantaggio di essere una parola internazionale, valida in tutto il mondo, che allude a un reato che purtroppo è lo stesso in tutto il mondo. Quindi appunto. Per una volta l'accogliamo, non facciamo i puristi. Accogliamola, no, vabbè. Questa volta non facciamo i puristi e accogliamola, così ci capiamo e ci capiamo in tutto il mondo. Grazie Valeria Della Valle. A te, arrivederci. E così salutiamo anche Valeria e direi abbiamo ancora qualche istante per Francesca da Varese al numero verde. Francesca. Buongiorno. Eccoci finalmente, buongiorno a te. Volevo ricordare brevissimamente il caro Taricone, che tra l'altro è morto proprio nel giorno di San Pietro e Paolo, ed è stata veramente una cosa che mi ha commosso parecchio, anche se io non sono assolutamente un'affezionata dei reality e nemmeno guardo le reti Mediaset, tra l'altro, anzi ne sto lontano il più possibile, però mi è piaciuta la parabola della sua vita, perché anzitutto è riuscito a sottrarsi da quella da quella giostra, da quel carrozzone, dopo aver iniziato il Grande Fratello, dopo l'esperienza che lo ha proiettato appunto nel mondo così televisivo, facendo un grande lavoro su se stesso per anzitutto imparare un mestiere in maniera professionale, tant'è vero che qualche particina in film, e secondo me avrebbe anche potuto diventare qualche cosa di più. Sì, forse. Però volevo ricordare il fatto che c'è stata un'assurda polemica per gli striscioni di Casa Pound, che secondo me accusato non ha di essere di destra. Nessuna motivazione, ne ha scritto anche Michele Serra, la maca su Repubblica qualche giorno fa. Ecco, è stata proprio una cosa inaccettabile, non c'era nessun motivo, perché voglio dire, al di là di tutto uno può essere vicino o no a certe posizioni e questo non deve assolutamente diventare un motivo di litigio, specie proprio in occasione di un lutto così. Ecco, su Taricone ecco solo questo pensiero, una cosa così. Poi, però volevo dire un'altra cosa. Sì, visto che avete abbiamo tre secondi. Avete ecco tanta ospite. Sì. Io sono innamorata pazza della Divina Commedia, la vorrei insegnare a partire dalle elementari. Sono appena stata a fare un weekend in Toscana a visitare i luoghi danteschi che ogni anno ripercorro, la Fonte Branda, il Casentino, dove ci sono tutti i castelli dei Conti Guidi che erano appunto, che ospitarono anche Dante. Ecco, sentire parlare della Divina Commedia mi fa veramente molto bene. Grazie Francesca, siamo contenti di questo. Mentre stiamo per salutarci con Patrizia Tamà, io sarò curiosa, Patrizia, di vedere se il sindaco di Roma Alemanno andrà veramente con la sua automobile, così come nell'automobilina scontro, a sfondare poi questi possibili caselli che metteranno per pagare i pedaggi sul raccordo anulare o cos'altro. Ma come concludiamo, Patrizia Tamà? Ma concludiamo con l'augurio a tutti di sopravvivere a questa ondata di calore presunta, e mi raccomando, nessun allarmismo, perché viviamo nell'epoca degli allarmismi: troppo caldo, troppo freddo, troppo sonno, troppa fame, troppo sesso, poco sesso, ma va bene così. Per il caldo un po' di rimedio c'è, diciamo, rispetto al resto. Ecco. Buona estate a tutti. Grazie Patrizia Tamà, e da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.